Siamo veramente felici di essere qua. Senza amen, siamo felici di essere qua. Sì, oh, diciamocelo come si va detto. Siamo felici. Perché? Perché abbiamo Gesù nel cuore, vero? E c'è un salmo che dice, il Salmo 100, lo ricordate? Dice, mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. E poi dice, servite il Signore con letizia, con gioia sempre. Presentatevi, poi dice, presentatevi gioiosi a Lui. Vi piace come salmo? Noi abbiamo un Dio che è il Dio della gioia. Il frutto dello Spirito è amore e al secondo posto gioia, gioia, amore, gioia. Il nostro Dio è autore di gioia. Il nostro Dio pretende gioia. Addirittura la Bibbia dice che ci sono, c'è una cosa che il credente deve fare. Vivere la gioia. Siate sempre, è un comandamento. Quindi la gioia non è solo il risultato di una bella situazione che vivi, di una circostanza che ti va alla grande, di un successo che ottieni. La gioia è una scelta. Se c'è un comando, tu puoi scegliere di essere gioioso. Se nella Bibbia c'è scritto presentatevi gioiosi a Lui, noi possiamo scegliere di essere in chiesa gioiosi. Amen. E la nostra chiesa non vuole essere una chiesa nella quale ci guardiamo e diciamo, andiamo in chiesa e mettiamo il broncio quando entriamo qui dentro. Perché? Perché dobbiamo essere riverenti nei confronti di un Dio che vuole che siamo tristi, che ci facciamo penitenza, che ci abbattiamo. Noi abbiamo un Dio che è il Dio della gioia e vuole che noi ci presentiamo gioiosi a Lui. Amen. Quindi siamo qui per fare festa, essere gioiosi. E quindi io voglio chiedere adesso a tutti noi qui presenti e a tutti a Mottola che sono davanti allo schermo di fare un grido di gioia, di essere gioiosi davanti a Lui. Il gruppo Lode ora ci aiuta con un rumore e un suono di gioia e noi vogliamo superare il volume di questi strumenti e fare baccano per Dio. Amen. Vogliamo vedere a che punto arriviamo del nostro baccano? Facciamo una valutazione, se non va bene ve lo faccio rifare. Al mio tre facciamo baccano per Gesù, perché lo dice la parola di Dio. Gridate di gioia, presentatevi gioiosi a Lui. Quindi uno, due e tre. Forza Mottola! Forza Mottola! Anche lì Mottola, forza! Vai Giuseppe, alza il volume. Forza Chiesa, alziamo il volume. Forza di più, alleluia! Gloria a Dio! Amen, amen, amen. Quanti juventini abbiamo qui in sala? Posso vedere le mani? Orgogliosi si alzano le mani degli juventini. Quanti milanisti abbiamo? Quanti interisti? Mario è milanista. Quanti interisti abbiamo? Vogliamo pregare per questi ultimi? È sempre buono pregare per gli interisti. Quanti che tifano per l'Italia quando gioca la nazionale? Credo tutti noi. Quando l'Italia fa gol, il tifo che si alza in tutta la nazione è un urlo di gioia. Quando Dio fa gol, l'urlo del popolo di Dio si alza per glorificare Lui. Amen. E Lui fa gol nelle nostre vite. Amen. Quindi al mio tre facciamo un altro urlo e poi ci accomodiamo. Uno, due, tre. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Grazie ragazzi. E mi seguite nelle pazzie, ma questo è quello che la parola di Dio dice, che il popolo di Dio deve presentarsi gioioso davanti a Lui. E se non lo facciamo dobbiamo correggere un po' il tiro. Quindi stamattina ho voluto correggere un po' il tiro, perché la nostra chiesa è una chiesa che è chiamata a gioire alla sua presenza. Amen? Amen. Che bello esserci, potete accomodarvi. Dio vuole parlarci di gioia questa mattina. L'Evangelo di Gesù Cristo è un Vangelo di gioia. L'Evangelo è la buona notizia. È la buona notizia che ogni peccatore può venire a salvezza mediante il ravvedimento dei propri peccati. Questo è il Vangelo. Il Vangelo è la possibilità gratuita che è data ad ogni uomo sulla faccia della terra di avere perdono per i propri peccati e ripristinare un rapporto col Dio vivente, creatore di ciascuno di noi. Tu hai la gioia dell'Evangelo perché benefici del rapporto e della relazione più preziosa che un uomo possa avere su questa terra, e questa relazione è con il Dio vivente, il nostro creatore e padre. Amen. La scorsa settimana abbiamo sentito un bellissimo messaggio che ci parlava dell'identità. Noi siamo figli di Dio e questo diritto ci è dato in Cristo Gesù in virtù del Vangelo, della buona notizia che Gesù è morto per i peccatori e tutti coloro che si ravvedono sono lavati dei loro peccati in virtù di quello che Gesù ha fatto sulla croce, e il loro rapporto è ripristinato con il creatore in un livello di intimità tale che Dio si presenta quale padre ai propri figli, a coloro che si sono ravveduti. Questo è il Vangelo, e oggi io voglio parlarvi della potenza dell'Evangelo, perché noi siamo una chiesa che crede nell'Evangelo, sperimenta l'Evangelo, e se sei qui questa mattina è probabilmente perché, molto probabilmente, perché l'Evangelo ha fatto breccia nel tuo cuore e ha cambiato la tua vita per sempre. Amen? Alleluia. Quanti possono dire: io sono una persona diversa perché Cristo Gesù mi ha salvato? Alleluia, gloria a Dio. Io sono una persona diversa, trasformata, rinnovata. Sono un uomo nuovo, sono una donna nuova, sono un ragazzo nuovo in virtù di quello che Gesù ha fatto per me. È morto ed è risorto, ha perdonato i miei peccati e mi ha dato un nuovo inizio. Un inizio che non è dipeso dalle mie scelte, dalla mia attitudine, dalla mia buona condotta, ma un nuovo inizio che è dipeso dal fatto che Lui ha pagato, Lui ha scelto, Lui ha permesso a me di ottenere questo dono, il dono prezioso della salvezza. Il dono della salvezza ci viene presentato nella parola di Dio quale dono gratuito, per questo si parla di grazia. Amen. Tu hai quel dono che è un dono gratuito, ottenuto non in virtù di impegni presi, condotta ben mantenuta, scelte fatte. No, tu hai ottenuto questo dono in virtù di quello che Gesù ha fatto per te. Amen. Io te lo voglio ricordare questa mattina, perché viviamo nella grazia di Cristo Gesù. Viviamo in virtù di quello che Lui ha fatto per noi. E stamattina voglio parlarvi della potenza dell'Evangelo, presentandovi un personaggio che forse alcuni di noi conoscono molto bene. Ha vissuto nella fine del 1800. Il suo nome è Dwight Lyman Moody. Dwight Lyman Moody. Qualcuno ha detto che gli assomiglio. Spero di assomigliarli fra qualche decennio in avanti, non già da adesso, perché è un piuttosto anziano in questa foto. Quest'uomo è stato un rivoluzionario. Quest'uomo era un uomo mosso dalla gioia, anche se nel disegno che vedete non raffigura il suo sorriso, ma era un uomo che camminava con il sorriso sul volto e portava gioia a decine, a centinaia, a migliaia. Anzi, udite udite, si pensa che quest'uomo abbia avuto influenza su 100 milioni di persone. Una persona istruita, una persona colta, una persona di successo, una persona importante, una persona in potere, niente di tutto questo. Quinto figlio di 9 figli, nato in una zona rurale, una famiglia povera, ha dovuto lasciare gli studi a 13 anni per sopperire, lavorativamente parlando, alla mancanza del padre che ha perso quando aveva 4 anni. D.L. Moody è stato un ragazzo che Gesù ha toccato e ha salvato, e la sua salvezza ha portato un effetto a catena nella vita di milioni di persone. Addirittura il presidente degli Stati Uniti, Abraham Lincoln, ha voluto incontrarlo e ha voluto vedere quello che lui stava facendo. Non era una persona dotta, aveva l'equivalente della quinta elementare, non era una persona che parlava bene, non era una persona particolarmente in potere, ma la sua decisione è stata quella, ascoltatemi, di non far passare giorno senza presentare l'Evangelo almeno a una persona. Lui diceva: un giorno per un'anima, ogni giorno un'anima. E si racconta che una sera è tornato a casa, era stanco e si è messo a letto e poi si è ricordato che non aveva ancora evangelizzato una persona. E quindi controvoglia si è alzato, si è vestito, si è affacciato alla porta di casa per vedere che stava piovendo, dicendo: non c'è nessuno qua fuori, piove a dirotto. E in quel momento è passato un uomo con un ombrello e in quel momento lui ha capito: questa è la mia occasione. Ha chiesto a quell'uomo: posso prendere riparo sotto il tuo ombrello? E poi, quando si è messo sotto quell'ombrello, gli ha detto: c'è un riparo per la tua anima, c'è un riparo nella tua vita, hai un riparo sicuro, hai la salvezza eterna. E quell'uomo, un po' infastidito, ha accettato il Signore Gesù, ha reso la sua vita a Cristo. E così, come quell'uomo, decine, migliaia e milioni di altre persone. C'è potenza quando un uomo decide di non vivere la sua vita per se stesso, ma decide di vivere la propria vita a favore del regno di Dio, mosso e guidato dallo Spirito Santo. D.L. Moody ha detto: sono solo una persona, ma sono una, sono qualcuno, sono solo una persona, non posso fare tutto, ma posso fare qualcosa. Quello che posso fare, devo farlo. Quello che devo fare, per grazia di Dio, lo farò. Era un uomo deciso a fare la volontà di Dio e a non lasciare la possibilità ogni giorno della sua vita che qualcun altro potesse incontrare quel Gesù, quello stesso Gesù che ha salvato la sua vita. Io oggi voglio parlarti della potenza dell'Evangelo nella tua vita. Qualche settimana fa abbiamo raccolto delle risposte da parte della Chiesa nell'incontro di condivisione. E la domanda era: cosa vorresti che crescesse nella nostra Chiesa? E molti hanno risposto: io vorrei vedere più salvezza, io vorrei vedere più impatto evangelistico e influenza da parte della nostra Chiesa nella società che ci circonda. E allora questo desiderio io voglio promuoverlo, perché è un desiderio che non parte da te, è un desiderio che viene da Dio ed è proprio il suo cuore. In 1 Timoteo al capitolo 2 versetto 3 noi leggiamo che questo è buono e gradito davanti a Dio, nostro Salvatore, il quale vuole, ascoltate ora, che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questo è il desiderio di Dio. Dio vuole, Lui vuole, Dio ha dei desideri. Lui vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano a conoscenza della verità. Quando tu vuoi che un tuo parente sia salvato e venga a conoscenza della verità, quando tu vuoi che un tuo collega di lavoro, un vicino di casa, un passante qualsiasi con un ombrello mentre piove, tu vuoi che lui sia salvato e venga a conoscenza della verità, stai avendo un desiderio che non è tuo, è divino ed è maturato in te in virtù della presenza dello Spirito Santo. E quindi io ti voglio incoraggiare, perché non è solo un desiderio bello, è un desiderio divino. Se ti stai chiedendo: il Signore a me non parla, ma hai questo desiderio, sappi per certo che Dio ti sta parlando e ti sta dicendo: questo è il mio desiderio e io l'ho impiantato dentro di te perché ho un compito da farti svolgere. Dio vuole servirsi di me e vuole servirsi di te, e non ha importanza da quale storia vieni, qual è il tuo livello di educazione, quanto hai studiato, quanta conoscenza hai della Bibbia, qualsiasi sia la tua condizione, se sei salvato e sai che hai la verità nella tua vita, tu sei un mezzo ben scelto e ben preparato per portare questo dono anche ad altri. Amen. Il desiderio, questo desiderio, il desiderio di vedere altre persone salvate è un desiderio che viene da Dio. E io credo che noi come Chiesa dobbiamo alimentare questo desiderio. Io credo che non dobbiamo ignorare il desiderio che abbiamo, che alcuni di noi, ma credo la grande maggioranza di noi, ha di vedere altre anime salvate. Ma da dove incominciamo? Quale evento possiamo inventarci? Quale programma potremmo attuare? Da dove puoi cominciare? Magari non l'hai mai fatto, non hai mai evangelizzato, non hai mai portato la conoscenza della verità ad altre persone, ti stai domandando come si fa? O forse lo hai fatto nel tuo passato e hai perso quel vigore, quello zelo, quella forza. Da dove puoi ricominciare? Beh, cominciamo o ricominciamo tutti insieme dalla lettura di un verso cruciale della parola di Dio. Si trova in Romani al capitolo 1, versetto 14, che dice, l'apostolo Paolo che parla e dice, io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Sta dicendo io sono debitore nei confronti di tutte le persone. Per questo, così, per quanto dipende da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. Se un tuo desiderio è sperimentare la potenza di Dio nella tua vita, se il tuo desiderio è vedere la mano di Dio muoversi in te, nella tua famiglia, nelle tue giornate, riconosci il valore di queste parole stamattina. Perché qui ci viene rivelato che la potenza di Dio è l'Evangelo. E l'Evangelo annunciato sprigiona potenza nella nostra vita. Se ti senti arido spiritualmente, se ti senti mancante spiritualmente, se senti che sei in una stagione dove non ricevi come ricevevi una volta, posso incoraggiarti a riaccendere la potenza di Dio evangelizzando. Perché nell'evangelizzazione, nel condividere il messaggio di salvezza ad altri, che tu attivi e sprigioni potenza che alimenta la tua vita di fede, alimenta la tua vita di gioia, alimenta la tua vita della presenza stessa dello Spirito Santo. Amen. Quanti lo possono dire? C'è potenza nel Vangelo, c'è potenza nell'annuncio della verità. Come cominciamo? Da dove cominciamo? L'apostolo Paolo dice io sono debitore. Io, dice Paolo. Dice, per quanto dipende da me, dice Paolo. Per quanto dipende da me. Io non dipendo da altri, io non dipendo da un programma, io non dipendo da una struttura, io non dipendo da un'attività, io non dipendo da un'organizzazione. Per quanto dipende da me, io sono debitore. Da dove comincia? Comincia da me, comincia da te. Dove comincia la potenza di Dio nella tua vita? Comincia da te che scegli di attivarti nell'evangelizzazione, nel Vangelo che è potenza di Dio. Se ti stai domandando come si comincia, comincia dal tuo cuore. Comincia nell'alimentare e non soffocare questo sentimento che l'apostolo Paolo esprime quale debito. Interessante? Paolo dice io sono debitore. Paolo dice io sono debitore alle persone. Io sono debitore ai giudei, io sono debitore ai greci, io sono debitore ai pagani, io sono debitore ai religiosi, io sono debitore ai saggi, io sono debitore agli stolti, io sono debitore a coloro che mi piacciono, io sono debitore a coloro che non mi piacciono, io sono debitore nei confronti di coloro che riceveranno l'Evangelo, coloro che non riceveranno l'Evangelo, io sono debitore verso tutti. È un sentimento quello che l'apostolo Paolo esprime con questa parola, debito, debitore. E noi possiamo avere un debito non solo nei confronti di coloro che ci hanno accreditato una cifra, un bene, che dobbiamo restituire perché c'è stato fatto un prestito, ma noi possiamo essere debitori anche nei confronti di qualcuno che ci affida qualcosa da dare ad altri e noi la custodiamo e la teniamo solo per noi stessi. Questo è il debito di cui parla l'Apostolo Paolo. L'Evangelo non è un dono gratuito che ti è stato dato senza che questo abbia un proseguo nella tua vita. Il proseguo che Dio vuole che abbia nella tua vita è che il dono che hai ricevuto e di cui hai beneficiato tu lo metta a disposizione di altri. Questi altri sono debito, tu sei debitore a questi altri. Io, tu, siamo debitori alla città di Modugno. Io, tu, siamo debitori alla città di Mottola. Io, tu, siamo debitori alla città di Bitonto. Noi siamo debitori nei confronti dei nostri colleghi. Noi siamo debitori nei confronti dei nostri vicini di casa. Noi non facciamo un favore perché li vogliamo bene. Sì, è una manifestazione d'amore, ma come la pone Paolo è totalmente diverso. Non è che tu fai un favore a qualcun altro. No, tu sei debitore nei confronti di quel qualcun altro. Quel qualcun altro sta aspettando che qualcuno gli parli della verità. Quel qualcun altro sta aspettando la rivelazione di Cristo Gesù morto e risorto e quel qualcun altro è in debito, è un creditore nei nostri confronti e noi siamo debitori nei suoi. Da dove comincia l'evangelizzazione? Da te che alimenti e non soffochi quel sentimento di debito che era particolarmente accentuato quando ti sei convertito. È vero? Quando hai ottenuto per la prima volta quel regalo, la grazia, la salvezza, ti sentivi debitore nei confronti di tutti. Perché hai ottenuto questo regalo, questa ricchezza, questa benedizione, ve lo ricordate? E volevi farlo sapere a tutti. Volevi che tutti sapessero che c'era anche per loro la possibilità di sbloccarsi da un'idea di cristianesimo religiosa e conoscere di persona Cristo Gesù nella loro vita e riceverlo totalmente per vedere la loro vita, le loro situazioni, il loro futuro completamente cambiato. Ve lo ricordate? Quel sentimento può essere alimentato o soffocato. D.L. Moody è stato un uomo che ha alimentato quel sentimento e non ha fatto passare giorno senza parlare a qualcun altro della ricchezza che aveva ottenuto, la salvezza in Cristo Gesù. Quindi comincia da te, comincia dall'alimentare un sentimento di debito in te e comincia dal vincere la vergogna. Il titolo di questo messaggio è Senza vergogna. Perché l'Apostolo Paolo dice, infatti non mi vergogno del Vangelo. Perché usa queste parole? Perché viene usato più volte questo termine nella parola di Dio? Gesù stesso lo usa e lo usa in termini piuttosto pesanti. Ora non voglio gravare su di voi con queste parole, però Gesù ha detto, se uno ha vergogna di me, e delle mie parole, il figlio dell'uomo, e sta parlando di se stesso, avrà vergogna di lui quando verrà nella gloria sua e del Padre e dei santi angeli. Gesù dice, se tu ti vergogni di me, se tu ti vergogni di aver ottenuto questo regalo, se tu ti vergogni di questa grazia e la tua vergogna ti impedisce di parlarne ad altri, io mi vergogno di te. Perché è imbarazzante questa cosa, è imbarazzante l'egoismo che si può vivere nel momento in cui otteniamo grazia e non la elargiamo ad altri. Quindi Gesù dice non azzardarti ad avere vergogna. E che cos'è la vergogna? La vergogna è un sentimento che nasce dentro di noi, che parte dalla paura di essere rigettati, etichettati, esclusi, emarginati. Noi tutti nasciamo con il desiderio di essere apprezzati dagli altri. Noi tutti nasciamo con il desiderio e il bisogno di essere amati dagli altri. Noi vogliamo essere amati dai nostri colleghi di lavoro. Noi vogliamo essere amati dai nostri compagni di classe. Noi vogliamo essere accettati dalla cerchia di persone che sono attorno a noi, dai nostri vicini di casa. Noi non vogliamo essere rigettati, etichettati, emarginati. E sapete, nell'Evangelo c'è questo rischio. E forse tu l'hai vissuto. E quell'episodio ha creato in te un sentimento di vergogna. Al punto tale che oggi ti chiedi se la persona, l'interlocutore che hai davanti, apprezzerà le tue parole o meno. E quindi in virtù di questo scegli se condividere l'Evangelo o meno. L'Apostolo Paolo dice: io sono debitore verso tutti, e poi aggiunge: e sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. E noi oggi pensiamo, vabbè, a Roma, una delle tante città dell'Italia. Ma fate mente locale. Siamo nel primo secolo. Siamo nell'impero romano. Quando parliamo di Roma, stiamo parlando del centro del paganesimo. Quando parliamo di Roma, stiamo parlando della capitale della persecuzione dei cristiani. Quando parliamo di Roma, stiamo parlando di gladiatori che si divertivano ad ammazzare cristiani. Quando parliamo di Roma, noi stiamo parlando di un popolo che si divertiva non a guardare una palla che girava nel campo e entrava ora in una rete, ora nell'altra, ma si riunivano per divertirsi a vedere come soffrivano e come morivano i cristiani perseguitati. L'Apostolo Paolo sta dicendo: io sono pronto a venire a evangelizzare a Roma. Che sta dicendo? Sta dicendo: io non mi vergogno, io non ho paura del rigetto, io sono pronto a morire perché sono debitore anche ai romani. Hai vergogna, ovvero hai paura di essere emarginato, hai paura che qualcuno ti dica sei un evangelista, hai paura che qualcuno ti dica sei bigotto, hai paura che qualcuno dica non sei più nella nostra cerchia, perché parli un linguaggio diverso. Questa paura è ciò che sta bloccando altre persone dal ricevere la salvezza della loro eternità. Che prezzo ha la salvezza di un'anima per la sua eternità? Potrebbe avere il prezzo di un nostro essere emarginati. Potrebbe avere il prezzo di un nostro arrossire. Potrebbe avere il prezzo di un nostro battito del cuore e gambe che tremano, imbarazzo e voglia di scappare. Può avere questo prezzo? Io dico di sì. E non una volta, non due volte, ma infinite volte. Torna indietro a quell'episodio dove ti sei sentito rigettato, dove sei stato deriso, dove qualcuno con le sue parole ti ha scavalcato e ha sminuito quello che stavi dicendo ed era così prezioso per te condividerlo. Supera quell'episodio, perché se lo superi, il Signore ti darà la grazia di poter raggiungere nuove anime. C'è un prezzo da pagare. C'è il rischio del rigetto, c'è il rischio dell'emarginazione, c'è il rischio di essere tagliato fuori dalle amicizie, c'è il rischio di essere l'unico nella fabbrica dove lavori ad essere solo. C'è il rischio di tutto questo, c'è il rischio di perdere clienti se sei a capo di un negozio, di un'attività. C'è il rischio che qualcuno non verrà più a fare la spesa da te o non verrà più da te per farsi imbiancare casa. C'è il rischio. C'è un rischio, ma l'Evangelo non è solo qualcosa che ci porta a soffrire, a sacrificarci. Qualcuno giustamente ha detto: la gioia più grande che un uomo possa vivere su questa terra è ottenere salvezza. E la seconda gioia più grande che un uomo possa vivere su questa terra è portare un'altra persona a salvezza. Amen. Io ho vissuto questa gioia. E non ha prezzo. non ha prezzo poter dire a una persona, non questa gioia, non parlo in pubblico, non parlo come comunità, come chiesa, ma individualmente. Questa è la gioia più grande, quando tu sei a tu per tu con una persona e in quel momento gli dici: vuoi accettare Gesù nella tua vita? Vuoi ravvederti dei tuoi peccati? E quella persona riceve e dice: sì, lo voglio fare. In quel momento hai la possibilità di guidarlo ad una preghiera di salvezza, non la preghiera che fa il pastore, la preghiera che guidi tu per quell'anima. E in quel momento la gioia che puoi vivere non ha prezzo. Non è paragonabile alla gioia che ci portiamo a casa quando dopo una riunione vediamo persone che alzano la loro mano. È una gioia di inestimabile valore che riempie la tua vita, gli dà senso e diventa potenza che ti sblocca a farlo e rifarlo ancora. Non è un sacrificio, non è una sofferenza, è un privilegio ed è una gioia. Amen. In conclusione voglio leggervi quello che D.L. Moody dice dell'evangelizzazione. Lui dice in un suo libro: evangelizzare non è solo insegnare, istruire o impartire informazioni. Evangelizzare prevede che venga offerta la possibilità di rispondere praticamente alla verità insegnata. Questo tipo di comunicazione ha come obiettivo la conversione. Non si tratta quindi solo di informare, ma anche di mobilitare ad una scelta. Ve lo ripeto questa frase: non si tratta solo di informare, ma mobilitare ad una scelta. Ed è lì che batte il cuore. È lì che tremano le gambe, perché fin quando si tratta di informare, di dire qual è la differenza fra i cattolici e gli evangelici, se si tratta di informare e dire che cosa Gesù ha fatto, qual è la sua storia, se si tratta di informare anche sulla tua stessa testimonianza di vita, come lui ha cambiato la tua vita, fino a lì siamo in tutti in un campo abbastanza sicuro e tranquillo. Ma quando si tratta di mobilitarci per la conversione di un'anima, e cioè dire alla persona con la quale stiamo parlando: vuoi tu accettare Gesù? Vuoi tu scegliere per Gesù in questo momento? Vuoi tu arrendere il tuo cuore? Vuoi tu ripetere una preghiera con me? È lì che batte il cuore, è lì che tremano le gambe, è lì che può nascere rossore, ma è in quel momento che abbiamo la possibilità di sprigionare la potenza di Dio salvifica che porta a conversione anime. Qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, ho fatto realizzare questo braccialetto che indosso. Forse alcuni di voi già lo hanno preso. Questo braccialetto dice uno in più. Uno in più. E ho pensato di realizzarlo e di regalarlo a tutti coloro che vogliono prendere l'impegno di raggiungere una nuova anima e portarla a salvezza personalmente. L'ho fatto realizzare affinché possa essere un promemoria per noi. Possiamo indossarlo come lo faccio io e durante la giornata ricordarmi: ho una missione da svolgere, ho un compito. Forse ti stai chiedendo in questa stagione: che cosa Dio vuole da me? Qual è il mio ministero? Qual è la mia chiamata? È qui. È uno in più. È portare a salvezza un'altra persona, discepolarla e fare in modo che sia un credente cristiano maturo che gode di ogni benedizione di cui tu stai godendo in questo momento. Io voglio chiedere all'accoglienza, non li ho istruiti prima, di prendere i contenitori, credo che sono lì dietro, con questi braccialetti. Se ancora non l'hai preso, ci sono alcuni braccialetti ancora disponibili. E all'uscita puoi ritirare il tuo braccialetto e prenderti questo impegno. Non prenderlo perché è un bel braccialetto da indossare. Prendilo e se l'hai già preso, indossalo quale scelta per la tua vita di raggiungere un'anima in più. Amen. Vogliamo alzarci in piedi e pregare. Alleluia, grazie Spirito Santo. Forse qui questa mattina qualcuno ti ha portato, e forse hai capito ora perché ti ha portato, perché ha tanto desiderio che tu possa conoscere la verità, perché ha tanto desiderio che tu possa dire: io sono un cristiano nato di nuovo e Cristo dimora in me. Questo è il motivo per il quale siamo chiesa. Siamo chiesa per portare avanti quello che Cristo ha cominciato 2000 anni fa, e quello che Lui ha cominciato lo continua a portare avanti oggi, e la sua opera è quella di salvezza, liberazione e guarigione. E Lui continua oggi a salvare, a liberare e a guarire. Se sei in questo luogo, forse per la prima volta, o a Mottola per la prima volta, io voglio incoraggiarti a fare tuo questo messaggio, il messaggio dell'Evangelo, la buona notizia di Cristo, ovvero che puoi ottenere salvezza non per delle opere che tu compi, ma per l'opera che Lui ha compiuto sulla croce 2000 anni fa. Vogliamo chiudere i nostri occhi, abbassare il nostro capo? Se oggi dici: sì, Gesù, io ti voglio invitare nel mio cuore, allora ti chiedo ora di alzare la tua mano dove ti trovi, voglio pregare per te. Se dici: io voglio questa salvezza gratuita e voglio vivere con Gesù, non più da solo, autonomamente, nel buio delle mie scelte, ma nella luce della guida dello Spirito Santo nella mia vita. Noi siamo felici di poter pregare per te. Vedo diverse mani che si sono alzate. Se c'è qualcun altro, alza ora la tua mano. Vogliamo ripetere insieme questa preghiera, in modo particolare tu che hai alzato la tua mano. Ripeti con me queste semplici parole: Signore Gesù, ti invito nel mio cuore. Ti chiedo di perdonare i miei peccati e ti chiedo di darmi un nuovo inizio. Voglio la tua salvezza e voglio una vita da te guidata. Amen. Amen. Io voglio ancora pregare per chi questa mattina dice: sì, io voglio essere un portatore di salvezza. Io voglio sentirmi di nuovo in debito. E quel debito voglio che mi porti all'urgenza di parlare di Cristo ad altri. Io non mi vergogno dell'Evangelo. Questo è quello che vuoi dichiarare con me questa mattina. E voglio la salvezza di quel mio parente, di quel mio vicino, di quel collega di lavoro, perché è troppo preziosa. Non voglio fare proselitismo, non voglio una chiesa più numerosa. Io voglio anime salvate per l'eternità. Questo è il desiderio di Dio. Se questo è il tuo desiderio, lo vuoi vivere appieno, magari di nuovo, vuoi alimentare questo desiderio, ti chiedo di alzare tutte e due le mani in segno di arresa e voglio pregare per te. Qui a Mottola ti ringrazio. Prego, Padre, affinché tu possa potenziarci dello Spirito Santo per essere delle persone che portano l'Evangelo, la buona notizia. Signore, vogliamo vivere una vita che ha un peso e una ripercussione eterna per anime che altrimenti sarebbero perdute per l'eternità. Noi vogliamo strappare anime dall'inferno, vogliamo portarle alla conoscenza della verità. Serviti di noi. Serviti di noi, togli la vergogna, togli la paura del rigetto, togli da noi la paura di persecuzione, togli da noi tutto quello che ci può frenare, l'essere etichettato, l'essere interpretato quale quello che non siamo. Avere dei nemici, Padre, noi non vogliamo avere questa paura. Vogliamo darci l'opportunità di vedere altre anime salvate, lo vogliamo vivere personalmente. Io prego di potenziare ciascuno di noi nella potenza dello Spirito Santo. Nel nome di Gesù. Amen. Vogliamo continuare a pregare. Continua a pregare al Signore. Continua a pregare, magari prega per quelle persone che senti già nel tuo cuore che Dio ti sta chiamando ad andare e a raggiungere con l'Evangelo. Lo facciamo insieme, continuiamo a pregare e adorare il Signore.